Felice Hakame, nato a Varese nel 1945, è docente di teoria della comunicazione presso il Centro Tecnico di Coverciano. Dal 1985, con Carlo Oliva, conduce la trasmissione Caccia all'Ideologico Quotidiano su Radio Popolare di Milano e collabora, sin dagli inizi, con A Rivista Anarchica. Quella che ascoltiamo ora è la registrazione della presentazione del suo ultimo libro Il Sistema delle Stelle, edito dalle edizioni Odradec. La presentazione si è tenuta sabato 6 maggio presso il centro sociale autogestito Il Molino di Lugano. Registrazione a cura di Progetto Radio Scatola Nera. Grazie, io vi ringrazio a tutti di essere qua presenti e cercherò raccontarvi alcune cose che stanno alla base del libro e alla base anche della mostra di Anna. Per arrivarci la prenderò alla lontana come mia consuetudine. Allora, prendiamo un caso, è uno tra le migliaia di casi che potrei prendere. Prendo il caso di André Gide, scrittore francese, che è andato molto per la maggiore a suo tempo, e che nel 1919 scrive La Sinfonia Pastorale. La Sinfonia Pastorale è un romanzo breve in cui si narra di un pastore protestante che viene chiamato al capezzale da una sua anzianissima parrocchiana e che quando vi giunge l'anzianissima parrocchiana, ahimè, è già morta e defunta. Nel trambusto della vicenda e nell'emozione, questo pastore protestante scorge a fianco del letto dell'anziana morta, vi scorge una fanciulla bionda ed eterea che è capace, assolutamente incapace di relazionare, di comunicare con lui sicuramente, probabilmente anche con chiunque, perché prende informazioni e sa che la fanciulla è stata in qualche maniera accolta da questa vecchia signora, da questa vecchia parrocchiana, e che è accolta alla meno peggio, anche perché la fanciulla ha un difetto, è cieca. La fanciulla è cieca e vecchio pastore decide che forse Vangelo alla mano sarebbe opportuno soccorrerla, toglierla da quella situazione, anche perché dopo la morte di questa vecchia signora chi è che può più pensare a lei? Allora, sfidando le ire anche, le contestazioni aperte della moglie e del figlio, questo vecchio pastore la porta a casa propria e la accoglie a casa propria, pensando allora di educarla, pensando di darle un'istruzione e pensando poi magari anche di curarla. La educa, la istruisce, gli anni passano, i contrasti in famiglia, pur sotto, magari sotto sotto, covano ugualmente, costantemente, però appunto si arriva fino al punto in cui non solo la educa, la istruisce, la cura, ma la cura assume quegli aspetti clinici anche sufficienti e necessari perché la fanciulla riacquisti la vista. La fanciulla riacquista la vista e, riacquistando la vista, si avvicina al baratro di una tragedia che era in qualche maniera orchestrata dagli eventi stessi, perché la fanciulla si toglierà la vita, praticamente il pastore si accorgerà che il suo interesse nei suoi confronti non era così puro come il Vangelo avrebbe voluto, lo stesso figlio del pastore contesterà le scelte del babbo, anche perché nel frattempo si era innamorato anche lui, e ci sarà una conversione al cattolicesimo in punto di morte, e via di questo passo la tragedia è compiuta. È un romanzo che nel 1946 viene preso da Jean Delannoy e tradotto in un film. Viene tradotto in un film che avrà un grande successo al Festival di Cannes. Nella parte della fanciulla bionda cieca, Jean Delannoy sceglie Michelle Morgan, una attrice particolarmente famosa all'epoca sulla cresta dell'onda. Michelle Morgan è bionda, è diafana al punto giusto per poter interpretare la parte della fanciulla cieca. Nel 1947, l'anno successivo, sulla Revue d'Acoustique, un medico scrive un saggio in cui riferisce di un caso mirabolante. Una fanciulla francese è stata al cinema, è andata a vedere la Sinfonia Pastorale, ha visto Michelle Morgan, si è emozionata tanto di quel film, tanto da diventare cieca lei. Ora, non so se ci fate caso, ma in questo evento, cioè, poteva accadere di tutto, cioè, voglio dire, la fanciulla andando al cinema avrebbe potuto sì averci una forte emozione e averne di conseguenza uno shock che avrebbe, non so, provocatole magari un rialzo della temperatura, avrebbe potuto addirittura averci un'emiparesi, avrebbe potuto averci un'infastidiosissima incontinenza urinaria, qualsiasi cosa, ma maledizione, non so se ci fate conto sulla questione del fatto che per simmetria totale la fanciulla diventa cieca. Cioè, il mondo del cinema, e quindi anche una delle parti costitutive di quel sistema delle stelle di cui parleremo nel prosieguo della mia conferenza, il mondo del cinema è un mondo tale per cui fuoriesce, straborda da se stesso e in qualche maniera invade in maniera invereconda la vita medesima. Cioè, siamo il caso della Sinfonia Pastorale e della fanciulla che diventa cieca guardandola è un caso che va, a mio avviso, addirittura al di là dei casi più noti del tipo accaduti nel 26, quando per esempio il signor Rodolfo Guglielmi in arte Valentino muore di non mi ricordo più che, forse una peritonite e fuori dalla clinica un paio di ragazze si ammazzano direttamente avendo la notizia della morte, poi senza contare le numerose altre che muoiono a casa loro. C'è anche qui una serie di un fenomeno che accade in un certo contesto, dopodiché ha una serie di derivate, di ricadute terrificanti altrove. Ben inteso, posso prendere anche dei casi meno tragici, posso prendere il caso di Clark Gable in Accadde una notte nel 1937, che si vede per la prima volta, si toglie la camicia nel film, appare senza la canottiera e apparendo senza la canottiera manda in fallimento il giorno dopo stesso una serie di aziende, di industrie delle canottiere americane, perché non c'è più fanciulla e signora su questa terra che accetti di vedere il proprio maschio con la canottiera, perché Clark Gable non ce l'aveva. Allora, c'è una serie di ricadute. Il sistema delle stelle è un sistema particolarmente invadente, è un sistema pandemico il sistema delle stelle. E si è cominciato a parlare di sistema delle stelle già prima, in definitiva, del grande boom di Hollywood, già nella fine dell'Ottocento. Il grande boom di Hollywood avviene intorno al 1904, ma già prima si parlava dello star system per comprendere categorie di persone che andavano dagli attori, soprattutto i cantanti lirici, tutti una serie di personaggi, per l'appunto famosi, che in qualche maniera col loro modello, con la loro esistenza fatta modello, invadevano la vita altrui. Io nell'antologia critica del sistema delle stelle, diciamo che forzo un attimo la metafora e forzo ampio il concetto di sistema delle stelle a tutta una categoria di persone che nel frattempo si sono aggiunte. Facile individuare chi. In Italia abbiamo un festival di Sanremo in cui alcuni anni or sono fra i presentatori c'era per esempio un certo professor Dulbecco, che è l'iniziatore per esempio dell'idea totalmente scema della mappatura del DNA. Era sul palcoscenico di Sanremo ed era un noto biologo genetista, quel che vi pare. Nel sistema delle stelle ci sono entrati quindi gli scienziati, nel sistema delle stelle ci sono entrati sicuramente gli sportivi. Il fatto che Maradona abbia portato alla vittoria della sua nazionale argentina, riuscendo a fare un gol colpendo la palla con la mano, il giorno dopo è stato salutato dai giornali di tutto il mondo come un colpo di genio. Se lo facevo io o lo faceva un qualsiasi giocatore della regina o del campo basso, ecco che il giocatore doveva assolutamente scontare un atto di viltà senza pari. Fatto da Maradona diventava essenzialmente la mano di Dio. Coloro che partecipano del sistema delle stelle, diciamo che allora usufruiscono di un tasso di indulgenza collettiva, di indulgenza sociale assolutamente ingiustificabile. Costoro possono dire delle scemenze inaudite nella veste di papa, di scienziato, di cantante, di attore, di presentatore televisivo, cioè di sportivo, di campione, qualsiasi cosa essi dicano gli viene sistematicamente perdonata. L'uomo politico, il capopopolo, non è poi molto diverso. Anche al capopopolo vengono perdonate le cose più invereconde e più incongruenti. Le autocontraddizioni più evidenti le abbiamo sentite dire da personaggi che vanno da Mussolini a Berlusconi, senza assolutamente che nessuno potesse in qualche maniera contrapporgli un minimo di logica. Perché per l'appunto hanno dalla loro una sorta di indulgenza che si traduce, a mio avviso, soprattutto in un particolare. A costoro, pensate un attimo al grande artista, al grande sportivo, il grande scienziato, il grande capopopolo e il grande stregone. Tutti costoro hanno in qualche modo la medesima caratteristica del loro agire, o almeno gli viene attribuita la medesima caratteristica. Il motivo per cui l'artista giunge ad esprimere la sua opera è sempre caratterizzato come un motivo ineffabile, cioè come un qualche cosa di non coglibile e nemmeno di analizzabile, anzi, se analizzato, nel caso viene ad essere stigmatizzato colui che ne tenta l'analisi. Il capopopolo ha il cosiddetto carisma o carisma, una sorta di dono magico che in qualche maniera ne caratterizzerebbe le sue facoltà. Lo sportivo stesso ottiene il suo risultato, ottiene la prestazione, ottiene il grande record, ma senza sapere come ha fatto ad ottenerlo. Alcuni anni fa ho avuto l'avventura di partecipare ad un convegno di studi sul gioco del calcio e averci come correlatore un tal Sandro Mazzola, che pur in qualche maniera ha fatto la storia del calcio e che è stato un calciatore importante, poi ha tentato di fare, credo, no, l'allenatore non ha tentato nemmeno di farlo, ha tentato di fare il direttore sportivo e via di questo passo, oggi credo che faccia solo il commentatore. Bene, quando ho finito la mia relazione analizzando quello che era stata un'analisi di quello che era lo sviluppo di una partita di calcio, Mazzola salì al microfono e disse: ma se io avessi saputo quello che ci ha spiegato adesso il professor Accame, io non avrei mai iniziato a giocare a pallone, perché mi avrebbe tolto completamente la poesia del gioco. La sua analisi mi toglie la poesia. È lo stesso tipo di ragionamento di colui che si pone di fronte ad un quadro e che tira in ballo delle categorie che hanno una loro solidità storica, nel senso che indubbiamente le ritroviamo citate e stracitate ovunque, come quella per esempio della creatività, quella della la categoria della bellezza, la categoria dell'ineffabilità, cioè dell'indicibile di qualche cosa. Ma nel momento in cui qualcuno cercasse di ricondurre queste categorie a delle operazioni mentali umane, di cui pur per forza di cose saranno il risultato, ecco che immediatamente gli si oppone come una sorta di blocco, una sorta di opposizione sorda, fissa, costante, un ostacolo assolutamente invalicabile. Lo sportivo deve ottenere il suo risultato senza sapere come fa a farlo, il capopopolo a questo dono per grazia ricevuta, in virtù del quale le masse lo seguiranno, le masse gli saranno subordinate, alla stessa stregua come lo scienziato ha un momento in cui si trova nella vasca da bagno e mentre gioca con le barchette ha un momento in cui grida Eureka ed ecco fatto che l'ha azzeccata. Cioè, il momento della creatività scientifica, in definitiva, anch'esso viene totalmente estraniato ed espropriato a quello che è un percorso di consapevolezza relativo sia alla persona che l'ha vissuto, sia a chiunque altro voglia poi analizzarlo e studiarlo. Tutto ciò è inutile che vi dica che contraddice in pieno il principio della ricerca scientifica, nel senso che la ricerca scientifica non si caratterizza per l'oggetto che ha in studio, ma per la procedura che usa, per il fatto che la procedura che utilizza possa essere considerata ripetibile, se no nessuno farebbe esperimenti scientifici e nessun esperimento darebbe mai un risultato uguale a quello precedente, confermando l'assunto di uno scienziato o trasmettendo un sapere. Tutto il nostro sapere e la nostra conoscenza scientifica è basata sul principio di ripetibilità. Mentre invece tutto quello che concerne per l'appunto il sistema delle stelle è basato sul principio dell'irripetibilità di principio, di una caratteristica totalmente magica che in qualche maniera lo caratterizzerebbe fin dalla base, fin dalla nascita. Dopodiché è inutile che vi dica che tutto ciò ha da essere ricondotto ad un'unica matrice, che è la matrice essenzialmente della pratica religiosa. Lo sport nasce come pratica religiosa. Le prime testimonianze che abbiamo di manifestazioni sportive del tipo delle partite di palla degli Aztechi sono quelle in cui per l'appunto due squadre si confliggevano l'una con l'altra e per arrivare a quello che era il rituale, completare il rituale religioso che prevedeva poi che la squadra vincente, sulle prime, la vincente venisse sacrificata a Dio, sulle seconde i vincenti impararono a perdere e poi si riuscirono a cambiare il regolamento. Ma ovviamente questo mostra lo strettissimo legame che c'è fra la pratica sportiva e la pratica di ordine religioso. Lo scienziato, nel momento in cui, ahimè, accetta alcuni assiomi come indimostrabili, mostra totalmente la sua discendenza da quello che è il sapere religioso. D'altra parte, stregone, prete, scienziato sono figure che si sono specializzate funzionalmente soltanto da pochi anni, in definitiva, da qualche secolo, ma per un lungo tragitto della storia dell'umanità li vede assolutamente unificate in un'unica figura sociale. Quindi tutti costoro, aggiungeteci la grande capacità dell'artista, il cantante, il musicista, lo scrittore, il poeta, tutto quello che può far parte appunto di questo sistema delle stelle è da ricondurre al la conseguente somma di indulgenze sociali che questo sistema riesce a raccogliere attorno a sé, sono tutte essenzialmente da rapportarsi, da ricondursi a quello che è essenzialmente la pratica religiosa. È dalla parte religiosa che proviene per l'appunto questo tipo di cose, ed è questo che il potere di tutte queste persone essenzialmente deriva da ciò. Ora, tutto questo nell'ambito per esempio dell'estetica è particolarmente evidente, però anche particolarmente sottaciuto, è del tutto trascurato. Cos'è che dà valore per esempio a un'opera d'arte, così come peraltro cos'è che dà valore e fa sì che una certa scoperta scientifica possa diventare di un dominio e di importanza sociale rispetto a scoperte scientifiche che non diventano di dominio sociale e che anzi vengono trascurate per lunghi anni per poi magari riapparire secoli e secoli dopo? Il mio sospetto, il sospetto tragico che mi perseguita da un po', è che si tratti per buona parte di autopropaganda. Cioè, voglio dire, io sono rimango ammirato se un ragazzo mi salta a 4 metri e 30 con l'asta. Rimango affascinato da nostro figlio che riesce a modulare con la tromba delle sonorità assolutamente straordinarie. È un'abilità eccezionale. Ma non per questo, non per quell'abilità che debba andato a momento debordare da quello che è l'ambito stesso in cui è abile e in ragione di ciò diventare una stella che pontifica su qualsiasi cosa. Non è perché andato a momento qualcheduno ha un'abilità particolare che per ciò stesso debba diventare un privilegiato sociale in tutti gli ambiti. Prima di tornare all'estetica, fatemi fare un altro esempio sportivo. Il caso di un atleta della 7ª Olimpiade. Viene scelto da un signore locale per rappresentare il paese alle prossime Olimpiadi. Viene addestrato, viene istruito, addestrato per 3 anni, preparato e viene presentato alle Olimpiadi. Il giorno della gara, questo atleta, ben preparato, con l'affetto dell'intera comunità, il giorno della gara, questo atleta vince lui, e il giorno dopo potrà essere additato da tutte le ragazze per la strada, potrà passeggiare tronfio in paese, potrà probabilmente, anzi non probabilmente, certamente andare a cena gratis in trattoria e potrà usufruire di un vitalizio concessogli dalla comunità per l'intera sua vita prossima e futura. Nel frattempo cosa è accaduto? È accaduto che, guarda caso, pochi mesi dopo ci sono le elezioni in paese e il signorotto che aveva scelto questo atleta e che l'aveva fatto istruire e allenare per vincere la gara si presenta alle elezioni e le vince. Segno che praticamente alcune migliaia di anni prima di Gesù Cristo essenzialmente il modello Berlusconi era assolutamente già in auge, alla faccia della pulizia dello sport classico e dello sport olimpico rispetto a quello che invece si vorrebbe sia oggi tutto corruzione e porcheria. In definitiva voglio dire che questo sistema di indulgenza è appunto molto ben radicato e che c'è un elemento di autopropaganda nel momento in cui un risultato viene preferito ad altro. Nell'ambito della storia della scienza, la cosa potrebbe sembrare strana, però ci sono numerosi casi in cui, a mio avviso, proprio in virtù dell'appartenenza a questo sistema delle stelle, alcune vite risultano totalmente amputate e amputabili. Newton passa, per esempio, per un grandissimo fisico. E nessuno ha mai messo in discussione, qualcuno magari ha fatto notare che qualcosa di che non quadrava nei suoi rapporti con le donne c'era, visto che non ne aveva mai vista una o che chiudeva la porta e le finestre ogni volta che ne passava una, però qualche problemuccio l'aveva, però ha potuto usufruire di un'amputazione di non poco conto nel momento in cui il suo esecutore testamentario, una volta che lui è morto, ha deciso di prendere una serie di suoi scritti, chiuderli in due bauli e non farli aprire fino a 200 anni dopo. In quei due bauli c'era la dimostrazione che comunque tutto l'impianto della sua fisica era totalmente correlato ad un'idea del tutto teologica dell'universo. Del signor Freud potremmo leggere buona parte della corrispondenza più una buona parte di appunti e di scritti, li potremmo leggere soltanto, se non vado errato, dal 2125 in avanti, perché si è provveduto a segretare, peggio che fosse per l'appunto documenti vaticani o documenti segreti di Stato, a segretare quella che è buona parte dei suoi scritti. Tutto questo non depone a favore, a mio avviso, della chiarezza e della limpidezza di una scoperta scientifica, anzi, a mio avviso, essenzialmente dovrebbe ingenerare numerosi sospetti sul fatto che appunto quello che in qualche maniera in parecchi prima di me hanno messo in evidenza, che presumibilmente una buona parte del modo con cui gli scienziati raccontano di come sono giunti alle loro scoperte sono semplicemente un mucchio di balle. Sicuramente ha truccato le carte Mendel quando faceva i suoi conti con i piselli, sicuramente sono state truccate le carte di Newton, sicuramente quelle di Freud. La maggior parte delle scoperte scientifiche ci sono state tramandate, amputate, all'interno di vite totalmente amputate, per far sì che per l'appunto quella persona essenzialmente potesse incastonarsi nel sistema delle stelle al quale il regime politico generale l'aveva destinato. Non potrei parlare diversamente. Alla stessa stregua, io credo che buona parte del prodotto estetico sia da considerarsi frutto essenzialmente di autopromozioni. Voglio dire, chi è che fa parte della storia dell'arte, come della storia della scienza, ci è entrato a farne parte perché si è dato parecchio da fare. Io non ho un criterio ben preciso per fare una differenza qualitativa fra l'opera di Dante Alighieri e quella di Ermenegildo Frenietti. In definitiva, di sicuro, Ermenegildo Frenietti, so per certo che non ha trovato sulla sua strada i principi protettori che ha trovato invece Dante Alighieri, che gli hanno consentito di scrivere, di conservare la sua opera, mentre magari l'opera di Ermenegildo Frenietti l'abbiamo persa, buttata nella pattumiera direttamente nella discarica e nessuno di noi ha mai potuto leggerla. Questo sospetto direi che mi è venuto in tantissime circostanze. Mi è venuto in circostanze che riguardano per l'appunto la storia dell'arte, mi è rivenuto nei confronti della storia della scienza, e credo che sia una consapevolezza di tutti noi che la stessa storia della politica, del sistema politico che viviamo, non sia altro che una caterva di balle colossali che vengono organizzate essenzialmente per mantenere acquiescenti le masse e per in qualche modo anestetizzarne l'esistenza. Io credo che la maggior parte delle vicende della maggior parte delle vicende politiche che abbiamo vissuto ci sia raccontata solo una minima parte, e molto spesso si ricategorizzi il tutto con parole che fanno dimenticare completamente quello che è poi stato l'evento. Se non vado errato, ho sentito già almeno un anno e passa fa riassumere la storia d'Italia degli anni 90 con una frase del tipo: è stata l'epoca in cui una magistratura corrotta in qualche maniera ha cercato di disequilibrare gli assetti istituzionali italiani. Ovviamente, ricategorizzando si perde completamente, le parole ci fanno perdere completamente il senso delle cose al quale ci si riferisce, e di ricategorizzazione in ricategorizzazione, ovviamente, credo che non ci sia poi più la possibilità per nessuno di ricostruire come sono andate le cose. Non solo, io credo che spariscano perfino non tanto gli eventi, non mi spaventa la sparizione degli eventi, mi spaventa molto di più la sparizione delle categorie con le quali classificare questi eventi. E se fate caso al processo che stiamo vivendo e agli anni che stiamo vivendo, vi rendete conto facilmente che alcune categorie con le quali venivano classificati gli eventi alcuni anni or sono, alcune categorie con cui le relazioni umane e i significati politici degli atti e delle persone venivano classificati, oggi non vengono più utilizzati e praticamente se ne è persa in qualche maniera la matrice. Ora, in questo processo di autopropaganda, che allora diventa, praticamente, se dovessimo fare uno slogan, potremmo dire che la storia la fa il Maurizio Costanzo Show. Alla fin fine, coloro che sono in televisione la sera fanno i libri di storia, costruiscono le antologie del domani, coloro che saranno antologizzati, cioè scelti in rappresentanza di determinati tipi, per l'appunto di arti, mestieri e grandi capacità, o meglio di arti nobili, verranno scelti sulla base essenzialmente di atti di autopromozione. Perché un criterio per poter decidere, andato a momento, se qualcosa è meglio di qualcos'altro, non è facile a essere così di dominio pubblico, a essere così condiviso. Qui voglio tirare in ballo i quadri di mia moglie Anna, che potete vedere qua, e che sono accompagnati da alcune considerazioni che io ho voluto intitolare alla natura politica del formato del quadro. In linea di massima mi sono reso conto che la mia ignoranza riguardo dei formati dei quadri, anche dei più famosi, è praticamente totale. Mentre in definitiva il rapporto che lega un'immagine, che lega un segno allo spazio in cui questa immagine, in cui questo segno viene chiamato a vivere, è determinante. Cioè la scelta di una dimensione, la scelta di un'associazione di colori tale per cui possa essere visto da una certa distanza piuttosto che da un'altra, segnala essenzialmente quello che è un processo evolutivo al quale nessun autore può sottrarsi. Cioè c'è un problema di rapporto tra il quadro e colui che lo percepisce, e c'è un problema generale dell'ambiente in cui questo atto di percezione viene a essere formato. Ora, molto spesso non si riflette su questo tipo di aspetto, non si riflette in generale su quello che è la storia di un segno e su come quello che è la storia di un'associazione di un colore o la storia di una forma, e la si dà essenzialmente come un risultato acquisito, come qualche cosa che venga a essere frutto per l'appunto di un atto magico, di un atto incontrollabile e di un momento di creatività di cui nessuno essenzialmente sa niente, ne deve saper nulla, perché in qualche modo è connesso quasi ad un intervento divino nel pianeta. Ora, tutto ciò, a mio avviso, è totalmente privo di senso. Noi possiamo indagare e anzi, io devo dire che dovrebbe essere un dovere morale di chiunque di chiedersi nei confronti di che sia qual è stata la sequenza di operazioni che l'hanno costituito. Cioè, un atteggiamento che io chiamo operazionale, io so benissimo che è un atteggiamento antieconomico. Voglio dire, se io mi dovessi chiedere andato a mento tutti i giorni su come faccio a percepire questo bicchiere, è ovvio che ci impiegherei del tempo e probabilmente la sete mi ucciderebbe prima di aver dato una risposta conclusiva alla domanda. Però, ci sono dei territori di frontiera e delle questioni fondamentali per le relazioni umane, come quelle costituite dai valori, in cui non posso non chiedermi qual è l'apporto mio a quella costituzione. Non posso darla come scontato e come qualche cosa che è di per sé stante, qualcosa che si impone da sé. Come posso dire di questo bicchiere? Peraltro sbagliando, perché è ovvio che nel momento in cui io me lo categorizzo come un bicchiere, nel momento in cui me lo categorizzo come un bicchiere d'acqua, di operazioni ne faccio parecchie, ne faccio. Ci metto del mio in quello per distinguerlo da un bicchiere di vodka. Ci metto del mio, innanzitutto la misura del bicchiere, presumibilmente, perché mi avessero offerto un bicchiere di vodka sicuramente sarebbe stato piccinino così. Ecco, è graffa, grate. Ecco, ora... Allora, nei confronti di determinati oggetti, so benissimo che è antieconomico pormi una domanda sul criterio di operazioni con cui io l'ho costituito. Però ci sono anche degli oggetti ben più grandi e ben più gravi, dalle ricadute sociali ben più cospicue, come quelle relative alla definizione di qualcosa di valore, per cui qualche cosa ha valore e qualche cos'altro no, qualche cosa appartiene al sistema delle stelle, qualche cosa invece no. E lì, in quei casi, a mio avviso, c'è un obbligo morale di risalire alle operazioni di valorizzazione per le quali si sono costituite le cose, così e non cosà. Che il problema della dogana, per arrivare fino a qua, abbiamo dovuto superare una dogana e una volta superate la maggior parte delle pratiche più bieche, più banali, del problema del numero dei quadri, del problema del peso dei quadri e del problema di quando entrano e quando escono dal confine italo-svizzero e svizzero-italo, c'era poi una domanda fondamentale. Quanto valgono? Quanto valgono? Al che ovviamente la nostra risposta è stata, per cavarcela, è stata nulla, ed ecco fatto, risolto il problema. Anna non partecipa del mercato, non fa parte né dell'anticamera né della cantina, dello scantinato del sistema delle stelle, e pertanto, cari doganieri, dovete accontentarvi del fatto che queste opere entrino in Svizzera senza pagare la cauzione, perché sennò avrei dovuto pagare la cauzione. Perché questo è poi alla fine il problema, perché c'è una sorta di arte anche per la borghesia più poliziotta, diciamo così, oltre che c'è un problema dell'arte per i sistemi più aulici. È ovvio che in qualche maniera poi le graduatorie dell'arte e dei valori le faccia sempre la classe agiata, però Ci sono, diciamo che le istituzioni poliziesche hanno sempre guardato con tempi diversi, perlomeno al sistema dei valori della borghesia nel definire qualcosa come di valore, di pregio e qualcosa come di meno pregio. Ora, quando si tratta di allora stabilire se qualche cosa è bello, qualche cosa è giusto, qualche cosa è reale, qualche cosa è naturale, contrapposto all'artificiale. Quando si tratta di aver messo in gioco dei valori sui quali si gioca l'esistenza relazionale di tutti noi, in questi casi io ritengo del tutto inammissibile non assumere un atteggiamento di ordine operazionale, cioè non farsi la domanda sui criteri in grazia del quali qualcosa è giusto, qualcosa è bello, qualcosa è reale, qualcosa è naturale e via di questo passo. Perché è all'insegna di questi valori che poi ci si gioca la propria posizione nella vita, è all'insegna di questi valori che qualcuno ci sguazza e qualcun altro ci crepa. È su queste cose poi alla fin fine che la nostra vita ha un senso o un altro. Per cui la critica del sistema delle stelle è una critica che è di una banalità infantile di cui per certi versi vi chiedo di perdonarmi, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Voglio dire, per quanto cerchino di risdoganarmelo in termini postmoderni, ma il buongiorno rimane lo stesso cretino che era 50 anni fa. Si può provare, Aldo Grasso, a scrivere un saggio su bisogna riflettere su Mai Buongiorno, era molto più intelligente di quel che pensavamo, eccetera, eccetera. Queste però sono articoli pagati. Una persona appena sensata lo guarda e dice, povero uomo, vabbè, fa le stesse gaffe, dice le stesse scemenze che diceva esattamente 50 anni fa. Non è quello il problema. Però non è nemmeno così vero. Perché in definitiva lì c'è la matrice culturale di tutti noi, cioè lì si sta diffondendo cultura. Il Mai Buongiorno è un meme epidemiologicamente pestifero, né più né meno delle centrali nucleari, né più né meno della fenomenologia husserliana, né più né meno della Coca-Cola, cioè sono tutte idee che in qualche maniera cercano di sopravvivere insediandosi nel nostro cervello per rimanerci il più a lungo possibile. In qualche modo c'è tutto un buon sistema fatto perché queste idee possano diffondersi e possano epidemiologicamente, per l'appunto, infettare delle persone. Ora, io credo che quindi nei confronti di questo sistema delle stelle c'è un livello di intervento critico che effettivamente può essere preso come uno sparare alla Croce Rossa. Però secondo me, sotto sotto, se andiamo alla radice, come ho tentato di fare in questo libretto, se andiamo alla radice della sua natura di questo sistema delle stelle, ci rendiamo conto che in definitiva, tra Einstein e Mike Buongiorno, dal punto di vista strettamente ideologico, la differenza non è poi un granché. Cioè, li subiamo entrambi alla stessa maniera e da questo punto di vista costituiscono per noi un banco di prova, ma da far tremare i polsi, tutte e due. Sono un banco di prova difficile. Perché? Perché l'unica possibilità di difesa sta per l'appunto nel riappropriarci di un processo che tutte queste forze mirano a tenercene lontani. Cioè il processo relativo al come noi produciamo i nostri valori. Io penso che l'unica soluzione possibile sia il fatto che del poter arrivare e mantenere una salda consapevolezza di come nessun valore sia dato di per sé e di come invece ciascun valore è comunque sempre un prodotto storico di qualcheduno che è vivo o ha vissuto e di qualcuno che ha negoziato e ha dovuto negoziare e ha lottato per far sì che questo valore si imponesse su altri. È la consapevolezza dei nostri processi di valorizzazione che ci manca ed è su questa contesa che a mio avviso noi siamo chiamati a opporci ad un sistema politico che sfrutta fino in fondo il sistema delle stelle per far sì che delle masse sempre più analgesizzate possano risultare totalmente subordinate a quella che è la sua logica. Io credo che questa sia l'unica soluzione possibile. E so benissimo che è una soluzione assolutamente impossibile, perché non solo per motivi di economicità noi cerchiamo di sfuggire a questa rottura di scatole del porci il problema del come abbiamo fatto a farci questo che abbiamo qui davanti. C'è un problema di economicità, semmai metaforicamente molto esteso, nel senso che ne va della nostra stessa sopravvivenza nel sistema di relazioni sociali con le quali ci troviamo a avere a che fare e nel quale nasciamo e per forza di cose viviamo. Tutto quello che è l'esperienza quotidiana essenzialmente tende a far sì che a questa consapevolezza non ci si arrivi, tende a trafugarcela, a portarcela via questa consapevolezza. I nostri atti, la nostra viltà quotidiana, la nostra, come dire, il nostro desiderio di prevaricare l'uno sull'altro, ma anche semplicemente in famiglia, non tanto solamente in una piazza in cui si discute dei grandi sistemi. Tutte le circostanze della nostra esistenza, noi ci troviamo molto comodo e utile poter spendere quella moneta retorica che ci dice: guarda, no, le cose stanno così e così, i valori sono questi. Lo troviamo estremamente comodo e quindi quasi mai siamo propensi ad accettare quella fatica e quel momento di negoziazione dei significati delle nostre parole e quel momento di negoziazione dei significati dei valori che sono connessi a queste parole. È un'impresa, a mio avviso, del tutto ardua, quasi improponibile, certamente che è l'unica impresa comunque che può prefigurare per tutti noi una società in cui le decisioni possa averci un senso, perlomeno la frase in cui le decisioni possono essere prese in comune e i valori costruiti con una consapevolezza collettiva, che credo che sia l'unica soluzione alla nostra corsa verso il baratro che ci attende. Con queste parole di totale sfiducia e di invito ad approssimarsi al miglior bocchettone del gas che potete trovare a vostra portata di mano, io credo di poter essenzialmente anche piantarla lì e poter chiedere a voi che cosa ne pensate di quello che ho detto, a prescindere dal fatto che abbiate o no letto il libro. Mi sembra che in linea di massima di essere riuscito ad esprimere sufficientemente quello che è il senso del libro e quindi quello che metto sul tappeto e che metto in discussione essenzialmente è questo. Quello che è nel libro al massimo è un amaro divertimento in più per quelli che sono i mille casi di strapotere che sono andato in qualche maniera a pescare e a cercare di denunciare, per far sì poi che ciascuno di noi sia perlomeno vigile e solerte sul proprio posto di lavoro e in ogni circostanza, e che non accetti in nessun luogo che qualcuno gli somministri il quadro dei valori al quale dover sottostare per forza di cose. Siete stati molto attenti a quello che ho detto e ve ne ringrazio molto. Siete stati molto cari anche essere qua. Questo e altri documenti sono liberamente scaricabili dal sito www.scatolanera.ch.